Before following Lorenzo and Sarah onto the streets of Florence, it's worth spending some more time on asking for and receiving directions. You already know how to ask if there's a particular shop or facility in the vicinity. Scusi, c'è un bancomat qui vicino? And you've heard the phrase, where is... Dov'è? Per esempio, scusi, dov'è l'albergo? Scusi, dov'è la stazione? Another useful phrase is... Per andare a... Which means literally to go or to get to. But if you lift your voice at the end, it becomes a question. How do I get to... Per andare a... Remember that the last word of that phrase, a, meaning at or to, is always linked to the following word for the. So before a feminine word, alla becomes alla. Per esempio, scusi, per andare alla stazione, per andare alla banca. Before masculine words, a and il become al. Per esempio, scusi, per andare al ristorante, per andare al supermercato. And finally, a. And L apostrophe before any word beginning with a vowel sound becomes A L apostrophe. Al. Per esempio, scusi, per andare all'aeroporto, per andare all'università. Now you ask how to get to these different places. Ask the question in the pause and then repeat the correct one. Cominciamo. 1. To the supermarket. Scusi, per andare al supermercato. 2. To the airport. Scusi, per andare all'aeroporto. 3. To the station. Scusi, per andare alla stazione. 4. To the university. Scusi, per andare all'università. 5. And finally, to the bank. Scusi, per andare alla banca.